bisogno di un orizzonte di marinaio per essere un gabbiano nel cielo e sagliarmi d'azzurro sfondo con le ali aperte divento un aeroplano che ora tocca col muso stelle dell'infinito divento anche un astro del cielo che si incendia e cade lento sopra un binario e sono io quel treno che non porta persone, merci, posto, bestiame ma solo un bel pensiero. Ho bisogno di serenità, di un arcobaleno. Ho bisogno di un po' di sole, una botta in testa, di una sfarzata, sradicarmi con nuda forza dal prato grigio che mi imprigiona. Ho bisogno d'essere foglia nella tempesta per essere barchetta di carta in balia dell'acqua piovana, mulinello di ricco in un tombino e mi perdo d'acqua di fogna, divento specchio di lago e rigo, un campo di grano e germoglio fresco, pensiero da sempre incolto e son di nuovo solo a scrutare infinite stelle dell'infinito.